音节练习 Soldati. Si sta, come d'autunno, sugli alberi, le foglie. Ed è subito sera. Ognuno sta solo sul cuore della terra, trafitto da un raggio di sole. Ed è subito sera. Orfano. Lenta la neve fiocca, fiocca, fiocca. Senti, una zana dondola, piano piano. Un bimbo piange, il piccol dito in bocca. Canta una vecchia, il mento sulla mano. La pioggia nel pineto. Taci. Sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane, ma odo parole più nuove che parlano gocciole e foglie lontane.